Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci, eccovi, siamo insieme, parliamo come sempre il venerdì di attività sportiva, però con una novità. Valeria Bernardi regia la parte tecnica, non è questa la novità, e neanche che ci sia Laura Vanossi in redazione. Forse manca qualcuno, ma andiamo a sentire i titoli del nostro sommario. Sci, scarponi, neve, muscoli e testa. Questi gli ingredienti per una sciata in tutta sicurezza. Aggiungi la musica al tuo Natale. A Milano la prevenzione prende il metrò. Oggi andiamo in montagna, parliamo di sci con il ponte dell'8 dicembre alle porte. Sicuramente gli amanti della neve si rivestiranno sulle piste, credo che questa sia un'ottima occasione, un po' di riposo ci vuole e soprattutto fa bene, soprattutto se diventa un'occasione per fare un po' di moto, cambiare aria. Ma attenzione, come abbiamo detto anche nel sommario, gli sci ai piedi devono essere governati da testa e gambe forti, ma non solo. Intanto vi presento subito gli ospiti che ho in studio con me. Io sono sempre contenta quando gli ospiti mi vengono a trovare qui e sono oggi particolarmente contenta perché finalmente sono riuscita a catturare il dottor Simone Diamantini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ed è tutto qua bello abbronzato. Da dove arriva? No, arrivo da una zona calda, quindi non dall'argomento di oggi, ma da un argomento. Il dottor Diamantini è preparatore atletico delle squadre giovanili di sci di fondo, ma è stato anche preparatore atletico della nazionale di sci di fondo femminile. Sì, sono stato fino alle Olimpiadi invernali l'anno precedente e l'anno anche delle Olimpiadi, quindi della squadra femminile. Quindi il dottor Diamantini sarà a nostra disposizione per darci consigli allenanti, dottore? Certo. Faremo il possibile. Però in studio ho anche il dottor Andrea Panzeri, che è un ortopedico al centro di traumatologia del Galeazzi di Milano ed è responsabile della parte medica della nazionale di sci alpino. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Iniziamo subito a dare un po' di differenze da queste due specialità, perché solitamente si pensa che per lo sci di fondo, che sia più, no, che richieda più fatica, perché chi l'ha provato sa che è abbastanza faticoso, sia necessario un allenamento, una preparazione, e invece sullo sci alpino uno si mette gli sci o prende lo snowboard e va, perché la discesa aiuta. Allora, dottor Diamantini. Ma effettivamente questo è il pensiero comune, di fatto invece è esattamente il contrario, perché mentre lo sci di fondo è comunque una disciplina che si può gestire in funzione del proprio stato di allenamento, è chiaro, e anche il percorso si può scegliere in funzione del proprio stato di allenamento e anche lo stile, quindi lo stile classico o lo stile libero, diciamo, chiamiamolo libero, o il pattinato. Mentre la discesa la possiamo gestire, per modo di dire, ma invece richiede un maggior allenamento e una maggior capacità di gestire le nostre gambe, i nostri ammortizzatori naturali, che spesso invece, se magari è tanto tempo che non lo facciamo, ci ricordano dopo un paio di discese che forse il ginocchio non andava così bene, che l'anca mi dava un po' fastidio, che la schiena aveva qualche problema, e quindi forse conviene fare un check-in durante la preparazione primaverile o addirittura avere una serie di accortezze prima di cominciare la stagione a 200 all'ora e poi dopo ritrovarsi ad andare dal dottore. Si finisce infatti dal dottor Panzeri, ma noi non vogliamo venire da lei, vogliamo evitare i rischi, e come diceva Diamantini, i rischi in discesa ci sono, perché si prende velocità, ma non solo, a volte lo sci non si governa più. No, certo, sicuramente lo sci alpino, ma come anche lo snowboard, a differenza dello sci nordico, dello sci di fondo, è sicuramente uno sport più traumatico, e quindi è forse più importante arrivare in una forma fisica e preparati meglio all'inizio della stagione dello sci alpino rispetto allo sci di fondo, dove praticamente quando ci si è stanchi ci si può magari fermare, ma il rischio di farsi male, il rischio di traumi è inferiore, e quindi dovendo scegliere è più importante per lo snowboardista o lo sciatore classico avere una buona preparazione per poter affrontare le discese, anche con i nuovi sci, insomma, si scia sempre in modo più facile, si raggiungono velocità sempre più elevate ed è importante avere una buona muscolatura per poter controllare questi sci ed evitare chiaramente di andare incontro ad infortuni, insomma, quindi è la forma migliore di prevenzione. Allora, cercheremo poi di dare ai nostri amici da casa anche qualche informazione per capire se sono preparati e quindi potrebbero raccontarci anche che cosa stanno facendo per allenarsi. Magari c'è ancora la prescistica, ma è stato un po' abbandonata, sostituita da altri tipi di allenamento, ma molti di voi sono già arrivati 6-7 messaggi che mi chiedono del nostro dottor Confalonieri. Qua in studio non c'è, se ci fosse si vedrebbe, perché lui non è quella personcina che si può nascondere dietro un microfono, insomma occupa il suo spazio, e però noi il dottor Confalonieri ce l'abbiamo in linea. Dottore, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono molto dispiaciuto di non essere lì, ma insomma sono validamente rappresentato al professor Diamantini, in particolare, che è un mio caro collaboratore. E allora, io sai che vengo da lei perché ormai il fans club del dottor Confalonieri si aspetta le domande. Dottore, lei fa le domande e poi ci saluta, e quindi è comodo, perché esatto, poi lascia nelle pesti il dottor Diamantini e il dottor Panzeri. Pazienza. Oggi non posso essere lì, ma rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo. Oggi più che una domanda lanciamo una sfida, vediamo qual è il partito che prevale. È in arrivo la prima neve, proprio questo weekend ne sta arrivando anche parecchia. Preferite lo sci da discesa o lo sci da fondo? E perché? Oppure siete passati, come molti credo, dallo sci da discesa allo sci da fondo, o avete fatto il percorso inverso, e perché? Vediamo un po' chi prevarrà alla fine di questa ora di trasmissione. Allora, però noi possiamo parlare anche di snowboard, di ciaspole, dottor Confalonieri? Tanto che lei non c'è, noi parleremo anche di questo. Sì, diciamo che il partito delle ciaspole lo ascriviamo come un partito collaterale agli amici dello sci da fondo, mentre lo snowboard diciamo che supporta gli amici dello sci da discesa. Creiamo anche noi una sorta di federazione fra i partiti. Vediamo se il dottor Diamantini e il dottor Panzeri sono d'accordo. Dottor Panzeri, d'accordo? Ma direi di sì, lo snowboard è più simile come tipo di sforzo e come tipo anche di preparazione, si avvicina molto di più allo sci alpino, mentre le ciaspole è più uno sport di resistenza, dove quindi ha più aspetti uguali allo sci di fondo. E non volevo dimenticare anche che è molto in voga negli ultimi anni il telemark, che comunque... Me l'ha detto la Laura Vanossi, il telemark. Allora, il dottor Diamantini quindi si prende anche le ciaspole. Eh sì, dobbiamo prendere anche le ciaspole. Mi dispiace. No? No, assolutamente. Viene utilizzato anche come strumento a volte di allenamento, dove magari in alcuni posti non hanno la possibilità di battere le piste. Allora parliamo ovviamente di ciaspole. Non di atleti agonisti, parliamo di atleti free time. Ecco. Certo. 800-24-0024. Dottor Confalonieri, la salutiamo. Arrivederci a tutti e buona sciata. Arrivederci alla prossima settimana. Senta, se volesse fare delle incursioni, lo sa che il suo posticino c'è sempre, il suo posticione c'è sempre. Grazie a tutti, arrivederci. Buona giornata. I messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. Per molti il Ponte dell'Immacolata, oltre che per un'occasione per passare sugli sci e quindi stare un po' in vacanza, è anche l'occasione per addobbare la casa per il Natale, quindi albero, presepe, biscotti, biscottini, fiocchetti, luce, insomma è tutto quello che la fantasia e la tradizione ci suggeriscono per vivere l'atmosfera di questi giorni. Però noi vi vogliamo offrire uno spunto in più, cioè preparare, fare tutti questi preparativi con un sottofondo musicale può aiutare, e in linea con noi abbiamo la dottoressa Erika Sibillo. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti voi. Medico e musicoterapeuta. Dottoressa Sibillo, mi dispiace ma non può incontrare il suo dottor Confalonieri preferito, perché ho visto ormai che c'è un feeling tra voi due. Sì, direi proprio di sì. Allora vorrei dire che per questo weekend io non andrò a sciare, ma il dottor Confalonieri dovrà sicuramente preparare l'albero con delle bellissime, dolcissime melodie natalizie. Questo diventa d'obbligo. Allora, scegliamo. Le canzoni del Natale sembrano un po' tutte uguali, perché no, richiamano un po' questa atmosfera, però ci sono dei vari tipi, e quindi lei potrebbe magari suggerirci quali sì scegliere. Allora, dunque, Innanzitutto la musica natalizia deve servire, secondo me, a festeggiare soprattutto il nostro essere interiore, cioè a calmare le nostre tensioni, a distendere i nostri muscoli, a massaggiare in profondità la nostra schiena, le nostre spalle. E immaginiamoci ancora questo Natale e queste musiche natalizie di sottofondo che con dolcezza eliminano tutte le nostre paure, affanni, conflitti, insomma ci fanno sentire più sollevati, come se si togliessero di mezzo tutte le negatività che purtroppo a volte mettono in dubbio anche la bellezza della vita stessa. Allora, la prima cosa che suggerisco di questi canti natalizi è sicuramente quello di cantarli tutti insieme, anche in famiglia, mentre state preparando l'albero, mentre state preparando il presepe, cantate in coro, perché cantare in coro vi permette intanto, vabbè, di socializzare se siete tra un gruppo di amici, in famiglia di solidarizzare, di superare le proprie timidezze, liberare le proprie tensioni, non solo, ma viene affinato in questo modo lo spirito, la spiritualità, si rinforzano anche tutti quei valori, diciamo pure religiosi, ma anche popolari. Suggerirei anche di cantare in coro quali tipi di canti? I canti della tradizione, perché sì, perché vanno a fissarsi nella memoria anche dei nostri figli, dei nostri bambini, e ricordatevi che un domani l'associazione tra la memoria e gli eventi a noi più cari si rivedranno proprio grazie alla musica. Immaginatevi un astro del ciel, una d'este fidele, scantati tutti insieme con allegria ed entusiasmo mentre stiamo preparando il nostro albero. Allora, dottoressa Sibillo, seguiremo il suo consiglio, quindi tutti insieme, cantanti, ad addobbare l'albero, a preparare il presepe. Dottoressa Sibillo, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie anche a voi, buon Natale. Pronto soccorso. Torniamo sulle piste, fateci sapere se praticate lo sci alpino, lo snowboard, il fondo, e come pensate di affrontare, come vi state preparando per andare su piste e anelli da fondo. Abbiamo subito in linea con noi Alberto, che ci chiama da Cuneo. Buongiorno Alberto. Sì, buongiorno a tutti. Avverto tutti gli amanti dello sci che ha nevicato e quindi molto probabilmente ci sarà l'apertura del lotto. Siamo tutti contenti. Sì, bene, questa è una buona notizia. Volevo prima di tutto lanciare un appello. Sarebbe molto, molto bello che da parte vostra ci fosse un mettere un'attenzione all'uso del casco. Oh, benedetto Alberto, io lo dico sempre, il casco. Dottor Diamantini, ne parlavamo proprio prima di entrare in onda del casco. Assolutamente sì, perché comunque a volte, come dicevamo prima, la preparazione atletica è importante per noi, ma lo è anche per gli altri. Se riusciamo a gestire meglio a volte la nostra condizione sugli sci, ci permette di non andare addosso agli altri, di essere più sicuri. Però se abbiamo anche il casco e il nostro compagno anche, sarà meglio. Dottor Panzeri, rafforzi un po' questo messaggio. Lei che lavora in un centro di traumatologia dello sport, ne vede parecchi, no? Sì, beh, sicuramente il casco è importante, infatti in Italia c'è anche una legge che lo rende obbligatorio nei ragazzi sotto i 14 anni. È importante anche che negli anni c'è stata un'evoluzione dei caschi, quindi abbiamo sempre caschi più protettivi e nello stesso tempo che ci permettono anche di essere più inseriti nel luogo in cui siamo, quindi sempre le orecchie più libere, in modo tale che siamo più attenti a tutto quello che ci sta attorno, perché ricordiamo che il casco è fondamentale, ma devono essere dei caschi innanzitutto omologati, dei caschi costruiti e studiati per proteggere, per renderci comunque molto inseriti nel luogo dove stiamo sciando, e nello stesso tempo per non essere dannosi, perché una volta c'erano dei caschi troppo bassi posteriormente sul rachide cervicale, quindi potevano creare loro stessi ulteriori danni. Adesso abbiamo dei caschi veramente protettivi e performanti al massimo. Alberto, sono stati convincenti? Direi di sì. Io direi di fare un appello tutti, non solo per quelli che hanno l'obbligo di legge, certo, anche per quelli di mezza età, tra virgolette, come me, che hanno passato i 40. È interessante, anzi è importante averlo, perché un momento di disattenzione o qualcuno che ti investe perché ha avuto un problema può sempre capitare. Alberto, lei è allenato, si sente pronto, ecco, o vuole approfittare per fare un check? Proprio per quello telefonavo. Io purtroppo faccio un lavoro parecchio sedentario, faccio l'agente di commercio e sono sempre in auto. quali consigli mi possono dare i vostri dottori per chi ha poco tempo potenziare o comunque migliorare il tono muscolare? Dottor Diamantini. Beh, allora, prima di tutto è una domanda che può nascondere mesi e mesi di lavoro, però nell'immediato credo che quando inizia la stagione non abbiamo fatto veramente poco. La cosa più importante è quella, uno, magari le prime volte, soprattutto prima di partire, fare un minimo di riscaldamento anche sul posto, e poi soprattutto di non fare la prima discesa senza fiato, ma magari intervallarla, dividerla, suddividerla, in modo tale da fare la prima giornata spesso non in modo esagerato, finirla che ancora si hanno energie per poterla fare. Poi magari la sera, non per forza andare a bere o a divertirsi senza minimo di riguardo, ma magari fare almeno 20 minuti di stretching, defaticamento, qualcosa che ci consenta di recuperare per il giorno dopo, se spesso si continuano a fare giornate una dietro l'altra. Però la cosa più importante è presentarsi con un minimo di tono muscolare e un minimo anche di capacità aerobica, perché non è vero che anche quella non serva nello sci alpino, ovviamente. Allora arrivano tanti messaggi, perché il dottor Confallonieri smuove sempre i nostri ascoltatori. Ricordiamo lo sci alpinismo, meravigliosa avventurosa disciplina, ci scrive Riccardo da Torino. Un altro ascoltatore ci dice che ha abbandonato lo sci per andare sullo sci di fondo, dice che è un ottimo e completo allenamento. E ci sono degli ascoltatori che iniziano a chiederci, ma noi ce lo aspettavamo. Ad esempio Luca ci scrive: bimbo di 3 anni, è troppo presto per lo sci, meglio fondo, discesa. E per Luca noi abbiamo sentito un grandissimo campione. Rocca, andiamo. E se i bambini, i ragazzi hanno voglia di iniziare a intraprendere questa strada legata a questo sport, lo fanno sicuramente perché gli piace, perché non perché glielo imponete voi. Lasciate che vadano, si prendano il maestro che più gli sta simpatico, come ho fatto io con i miei figli, anche perché papà non lo ascoltavano, poi comunque preferivo che prendessero lezioni da una persona estranea che li facesse stare bene, però che li facesse nello stesso tempo divertire. E impareranno immediatamente, in base all'età, dipende, dai 3 agli 8, 10 anni imparano subito, dopo 3 giorni fanno quasi tutte le piste. E invece più si cresce, più si farà fatica ad inserirli in questo sport, che ha bisogno di essere un po' spericolato come lo si è quando si è bambini. Quindi lasciate proprio spazio e lasciate libertà ai bimbi, senza essere troppo lì ad essere apprensivi, perché poi loro si sanno arrangiare e i maestri sono all'altezza di poterli curare e avviare questo sport nel migliore dei modi. È giusto che tutti usino il casco, ma praticamente i bambini fino ai 14 anni ormai è obbligatorio, però tutti dovrebbero usare il casco, perché comunque è una protezione, tiene caldo e ti protegge da qualsiasi cosa, insomma una caduta, una scivolata, uno scontro soprattutto con un altro sciatore potrebbe essere fatale. Quindi lo usiamo in moto perché ci viene imposto, dovremmo usarlo in bici ma non lo usiamo, perché non usarlo sugli sci? Perché non usarlo sugli sci? Ma noi continuiamo a dire usatelo. Un ascoltatore, Edo, ci scrive: le mie bambine portano il casco anche a pattinare sul ghiaccio, sarebbe utile un'educazione comportamentale allo sci. Andiamo da Domenico che ci chiama da Lodi. Buongiorno Domenico. Buongiorno a voi. Lei il casco lo mette o no? Io il casco lo metto quando vado in bici, ma solo dopo una tremenda caduta e qualche punto di testa. A sciare è una cosa che proprio... Però perché? Che non sono uno scatenato, però davvero c'è il rischio degli altri quando ti piombano addosso. E mi è capitato anche quello. Vabbè, senta, magari Babbo Natale le porta un casco. Ecco, infatti, magari lo chiediamo. Dai, speriamo che lei sia stato bravo, se no si trova il carbone. Allora, Domenico, la sua domanda? La mia domanda era riferita all'articolazione, al ginocchio. Quest'anno mi è stato diagnosticato un inizio di cartilagine, di consumo di cartilagine, una cosa di questo tipo, e in effetti piegando il ginocchio in una certa posizione fa un male terribile, è la posizione che si tiene normalmente andando a sciare. Sì. La mia domanda era se c'era un rimedio, se c'era un qualcosa... O se doveva appendere gli sci al chiodo. Dovevo appendere gli sci al chiodo e limitarmi ad altre attività. dottor Panzi, è stato specificato già da un ortopedico. Ah, ecco, però... quindi lei la diagnosi l'ha già avuta. Vorrebbe che il dottor Panzeri dicesse ecco. No, vada a sciare. Non so se il dottore è bravo. Lo facciamo sciare o lo teniamo a casa, Domenico? Ma diciamo che se il dolore gli consente di sciare, io sono sempre dell'opinione che se gli piace sciare fa bene ad andare a farlo. Chiaramente se il dolore non glielo consente e ha già consultato un ortopedico e quindi c'è già uno stato di artrosi avanzata, il gesto dello sci potrebbe in qualche modo peggiorare questa artrosi, però diciamo che l'articolazione del ginocchio è molto sollecitata nei traumi, mentre diciamo nello sci normale permette anche in soggetti con iniziale artrosi o comunque con altri piccoli problemi di riuscire a fare la loro sciata, a differenza magari di altri sport dove è quasi praticamente impossibile andare a praticarlo pur con una minima artrosi, quindi insomma lo mandiamo, oppure gli facciamo fare fondo che lo sollecita meno. Sto dicendo una fesseria. Vabbè, sicuramente nel fondo non hai le contrazioni di tipo eccentrico e quindi le frenate che puoi avere nello sci, però di sicuro qualunque sia la patologia, se ti consente di farlo, se hai una buona tenuta muscolare, una buona flessibilità muscolare, sicuramente sì, migliora, quantomeno peggiora meno. Ecco. Ecco, io so però anche di persone che si prendono un farmaco, un antidolorifico, perché così il dolore non c'è, possono sciare. Dottor Panzeri, qua mi dica di no però lei. Ma io dico sempre che il dolore è un campanello d'allarme, quindi il non sentirlo non è corretto, però dico che anche ognuno di noi si sa regolare, e quindi se il dolore è veramente importante non basta un antinfiammatorio per permetterci di sciare, quindi... Siamo tornati, ma prima di andare di nuovo sulle piste, oggi parliamo di sci, facciamo un salto in metropolitana a Milano per seguire la nostra iniziativa Influenzate la canto e gliele suono, che prende il metrò, e questo grazie all'assessorato alla salute del Comune di Milano. E in linea con noi abbiamo l'assessore alla salute, il dottor Giampaolo Landi di Chiavenna. Buongiorno assessore. Grazie, buongiorno a voi, siamo tutti in metropolitana perché il Comune di Milano, il mio assessorato, ha sposato con grande entusiasmo questa iniziativa di Radio 24. Abbiamo voluto sensibilizzare, anche facendo girare sugli schermi della metropolitana di Telesia, questo bello spot che invita i milanesi ad avere grande attenzione sui grandi temi dell'influenza H1N1, e quindi una rete che si va formando di cantanti, di medici, di musicisti, tutte persone che esprimeranno attraverso la loro stupenda fantasia anche un filmato che poi saranno oggetto di un premio, di una valutazione di una giuria, un premio, e quindi a gennaio, febbraio del 2010 il Comune sarà partner nell'organizzazione di questo evento di chiusura con la premiazione dei migliori filmati. Una bella iniziativa, facile, semplice, che aiuta la gente a impegnarsi seriamente, quindi responsabilità sociale su un grande tema che è di grande attenzione per la gente. Assessore, io la ringrazio. Allora andate a vedere i nostri videoclip sul sito di Radio 24, ma cercateli anche in metropolitana Milano. Grazie all'assessorato alla salute. Assessore, grazie. Buona giornata. Grazie a tutti voi, un abbraccio. Ma ne fate di tutti i colori sulla neve, arrivano tantissimi messaggi, e fondo, e alpinismo, e discesa, e ciaspole, e vi preparate in mille modi con il nuoto, è corretto, ad esempio, come scrive Angelo, vado a nuoto per tenere le gambe allenate per lo sci Alp. Ma meglio che non fare niente, obiettivamente, però di sicuro se noi vogliamo allenare le gambe bisogna cercare di fare qualcosa che interessi l'aspetto della forza e anche l'aspetto diciamo dell'equilibrio e della gestione del disequilibrio, che sono le due condizioni base per poter tradotto per un lavoro, o come si faceva una volta con i classici corsi di prescistica che non si fanno più, oppure con le macchine da palestra, magari chiedendo a un istruttore una maggiore maggiore coinvolgimento di questo aspetto, quindi delle gambe, quadricipiti, glutei, anche addominali, perché poi comunque a scendere, se uno non gestisce bene la discesa, anche le cunette eccetera, comunque la schiena ne può risentire, e quindi avere una preparazione, una resistenza muscolare adeguata, che non è una resistenza solo di tipo aerobico classica, quindi il nuotare. Allora, noi abbiamo, lo facciamo sempre, prendiamo, cerchiamo di raggiungere degli sportivi e chiediamo loro di farci una sorta di cartolina, di lasciarci un contributo, e ha risposto al nostro invito Chiara Costazza. Andiamo a sentire. Un consiglio a tutti gli sciatori appassionati, insomma, divertirsi sicuramente sulle piste è all'ordine del giorno, però bisogna sicuramente usare la testa, perché ci sono altre persone vicino a noi che condividono la stessa cosa, la stessa passione, e non dimenticare di avere una buona preparazione a livello fisico, o riscaldarsi prima di mettersi sulla pista, perché comunque con le temperature basse è sempre un rischio lasciarci, insomma, un po' i piedi e le gambe, e rimettersi in forma alla grande per tutte le sciate. Poi sta nelle capacità di ognuno, insomma, saper scegliere lo sci, l'attrezzatura giusta per le proprie capacità, ecco. Sicuramente delle pause ci stanno, perché anche se comunque è uno sport che, ok, non ti richiede non so che di sforzo fisico, però comunque a livello di gambe e schiena c'è le sollecitazioni abbastanza forti. Ovviamente qualche pausa, come in tutti gli sport, ci sta tutta, e comunque fa sempre bene magari riscaldarsi un attimo al rifugio, piuttosto che comunque fermarsi un attimo al sole o così. Un adulto solitamente fa più difficoltà comunque a ingranare in certi movimenti, in certe situazioni che hai in pista, e quindi sicuramente il maestro ti può essere d'aiuto, e ovviamente per le prime uscite, insomma, darti forse più fiducia di quello che puoi magari acquistare da solo. Un commento a caldo, dottor Panzeri? Ma direi che Chiara ha centrato un po', ha fatto un po' il riassunto di quello che noi siamo qui e vogliamo dire, quindi che la testa non deve essere soltanto protetta col casco, ma bisogna usare la testa, quindi usare buon senso, bisogna ricordarsi che non siamo da soli in pista, bisogna sempre sciare secondo le proprie capacità e non farsi prendere dalla velocità o dalla voglia di andare più veloce. Lei diceva appunto fare le pause, ed è un aspetto che aveva sottolineato già il dottor Diamantini, quindi non ci sono delle persone che il primo giorno si mettono agli sci e finiscono a chiusura degli impianti. No, questo è assolutamente sbagliato, bisogna farsi le proprie pause, bisogna anche fare delle pause per potersi reintegrare, quindi uno spuntino, un pranzo corretto a mezzogiorno, e soprattutto non aspettare di essere stanchi, ma cercare di fermarsi un attimino prima, in modo tale che anche il weekend dopo o la domenica, il giorno successivo, si ha ancora forza per sciare bene tutta la giornata. Quindi, dottor Diamantini, facciamo una cosa a ore, no? Di tempo, quanto deve durare la prima sciata della stagione? Ma allora, se parliamo di sci alpino, quindi di sci classico da discesa, a mio parere innanzitutto conviene fare una grossa suddivisione e non fare una sciata unica continuata, quindi magari fare le prime discese sempre comunque intervallate con momenti di relax, anche di ripresa un attimo della confidenza con l'attrezzi eccetera, e poi dopo magari fare 3-4 discese, poi fermarsi, aspettare un attimo, magari andare in rifugio se le condizioni meteorologiche sono particolarmente rigide, per poi dopo magari riprendere ancora, quindi fare comunque un lavoro intervallato, se vogliamo chiamarlo dal punto di vista dell'allenamento, in modo tale che poi dopo, quando avremo maggior allenamento, possiamo fare degli intervalli più ridotti e riusciamo comunque a gestire sempre tecnicamente la discesa, mentre quando cominciamo a essere stanchi la fatica condiziona la nostra coordinazione, quindi i nostri riflessi, le nostre capacità di stare sugli sci. Mentre sul fondo è più... Il fondo è molto più naturale ed è anche molto più capibile dal praticante. Perché la fatica ti ammazza subito. Soprattutto le braccia, spesso in chi non è allenato comincia a non avere più le braccia, comincia a camminare, non più a sciare, cammina con gli sci ai piedi, però il trauma, diciamo, a meno che ci sono delle discese nei binari particolarmente impegnative, è meno impegnativo dal punto di vista delle articolazioni. Ma se noi iniziassimo quest'anno con un po' di fondo per allenarci e poi andare sulle piste? Può essere una strada, quello sicuramente è abbastanza utile da un punto di vista aerobico. Ribadisco che anche l'aspetto della resistenza muscolare in termini di forza, quindi l'abitudine al muscolo a sollecitare delle forze superiori al nostro peso, che a volte sono due o tre volte il nostro peso, è importante. Certo. Avrei Luigi che ci chiama da Ancona. Luigi? Non si sente. Luigi e Cesare invece dalla provincia di Trieste. Buongiorno Cesare. Eccoci Cesare, siamo da lei. Eccoci qua. Ci chiama dalla provincia di Trieste. Un grande saluto intanto a tutti, conduttori, grazie, esperti, ascoltatori, eccetera. E io volevo spezzare una lancia per una disciplina che si conosce un po' poco. Prima Chiara diceva usare la testa. Sì. La testa, quando si fa sci di fondo, può essere usata in un modo molto particolare, cioè per trovarsi la propria strada in un parco di piste molto più intricato di quello a cui siamo abituati. Lo sci orientamento, che è la versione invernale dell'orienteering, consiste nell'usare una carta topografica del centrofondo, in cui sono state battute molte più piste di quelle abituali, per andare a cercare dei luoghi un po' nascosti, dei luoghi un po' difficili. Quindi un po' si fa gli esploratori, no? Si fa un po' gli esploratori, esattamente. Quindi si esercita anche la mente, appunto, si usa la testa, oltre ad usare le gambe e il fisico. Ma è divertente, è inusuale. Uno spunto in più così piace molto, dottor Diamantini. Ma è uno sport ovviamente molto diffuso nei paesi nordici, dove la corsa di orienteering è diffusissima, addirittura è un evento nazionale. Da noi ovviamente il popolo dello sci nordico è solo a nord Italia, quindi già proporre una disciplina di questo tipo è piacevole, ma va organizzata. Quindi magari per la persona che si avvicina a questo sport, prima deve imparare a sciare con buona capacità e però poi eventualmente... potrebbe fissarsi quell'obiettivo. Intanto ringraziamo Cesare per la segnalazione. Si vanno a battere delle piste da fondo piccole e molto più difficili di quelle abituali, quindi effettivamente è uno sport per esperti. Però è talmente divertente che se avete l'occasione di farlo, io vi invito a farlo. Ecco. Grazie Cesare, si sente dalla voce che proprio è contento, grazie. È uno sport che entusiasma, te lo dico. E si sente dalla voce, va bene, lo farà proprio in questo fine settimana? Io sono in Friuli Venezia Giulia e il meteo non mi ha ancora promesso la neve. In Trentino lo si sta già facendo, in Veneto e Lombardia anche. Da noi stiamo aspettando la neve. Va bene, allora ve la mandiamo. Sa che noi siamo un po' maghe. Grazie a Cesare. E io saluto un amico, Sergio Sgrilli, che è in linea con noi. Sergio, ciao. Ciao Nico, ciao a tutti. Sergio, tu sei preparato o no per andare sulle piste? Guarda, sto per partire, ma non per andare a sciare, ma per lavorare, però sarò accanto alla neve. Sarai accanto alla neve perché tu in realtà sci, ma ti sei un po' spaccato da tutte le parti, o sbaglio? Ma guarda, io sono un bimbo di mare, nato e cresciuto sul mare, concettualmente la montagna non la concepivo neanche, l'ho conosciuta da grande quando per lavoro ho vissuto un anno e passa a St. Moritz, quindi ci ho dovuto poverino, no? Lavoro, però meglio lì che, che in altri posti e niente, il mio vivere la neve era andare su in baita, bere come dei disperati e venire giù come si poteva. Lo spazzaneve per me era già un virtuosismo, quindi ti immagini. Una valanghina, con la chitarrina. Con la chitarrina, sì, che era il mio strumento di lavoro, quindi restava giù, però insomma, diciamo che il ginocchio destro me lo sono giocato con gli sci, ho abbandonato gli sci, ho preso lo snowboard e ci ho giocato il ginocchio sinistro, ecco, detto proprio veloce. Perché è facile, vero? Con lo snowboard ci si rompe di più? Ma no, in realtà la tipologia dei traumi sono diversi e la quantità di traumi sono sovrapponibili. Nello sci alpino è più facile farsi male sicuramente al ginocchio, infatti il 50% degli infortuni sia dei nostri professionisti che degli amatori della domenica sono infortuni che interessano il ginocchio. Lo snowboard, oltre al ginocchio, i distretti più interessati sono gli arti superiori, quindi la spalla, il polso, la mano, perché ci si appoggia per molto, voi è si una usa manna, insomma, lo sci. No, beh, insomma, è il nostro lavoro. Sergio, invece tu non andrei a sciare, non solo perché abbiamo capito che, insomma, non è proprio il tuo forte, poi quando vai ti fai male, due sono già partiti, ma perché sei a Milano per un'iniziativa che io voglio far conoscere agli ascoltatori di Radio 24 perché è bellissima. Tu sarai la voce narrante di Pierino il lupo. Raccontaci. Andiamo al 6 di dicembre, che è già una giornata speciale perché è San Nicola e quindi anche il mio onomastico, chiusa la parentesi, quindi così vi faccio da sola gli auguri in anticipo. Però il 6 di dicembre a Milano? Guarda, innanzitutto grazie per questo aiuto, perché si parlava di neve, ma io ho deciso di rimanere appunto a Milano perché il 6 dicembre la sera nel conservatorio con un pazzo direttore d'orchestra conosciuto in Italia in giro per il mondo che si chiama Daniele Agiman, lui porterà la sua orchestra e io sarò la voce narrante di Pierino il Lupo con una serata dove ci sarà anche un coro gospel, dove ci sarà una cantante bravissima, altri comici di Zelig che mi vengono a trovare, ma tendenzialmente una serata di gioia, di musica per tutta la famiglia, nella forte volontà di aiutare un villaggio di bambini in Uganda. Sono 230 bambini che hanno veramente e urgentemente bisogno d'aiuto, quindi senza calcare troppo la mano, però si tenta di fare ciò che possiamo per aiutare gli altri in una cosa divertentissima. Pierino il Lupo, io faccio il narratore, sarà divertente. Sarà molto divertente, soprattutto è un bellissimo progetto. Sergio, ti ringrazio per essere stato con noi. Buon Pierino il Lupo, ci saremo. Grazie. Non c'è buona neve. Ciao, un bacio. Ciao, a Sergio, grazie. Sgrilli. Ciao. Allora, noi dobbiamo salutarci perché siamo veramente in chiusura, mancano 30 secondi, non è ancora neanche arrivata la musichetta, quindi posso salutare bene perché Valeria Bernardi mi sta sorridendo, il dottor Panzeri ringraziandolo, il dottor Simone Diamantini. Un consiglio a testa per un secondo, dottor Panzeri. Niente, andiamo a sciare, usiamo sempre la testa con il casco, tanta prudenza e rispetto degli altri. Dottor Diamantini, le ha fregato un po' la chiusa, ma io so che lei... No, la progressività credo che sia la cosa migliore. Non partire sempre a 200 all'ora, ma fare le cose con progressione, che la stagione sciistica è molto lunga. Insomma, il nostro dottor Confa direbbe gradualità, e lei è vero che siete molto vicini. Io vi aspetto domani per Questa casa non è un albergo, che ricordate è a mezzogiorno. Intanto buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.